Galaxy House. Galaxy. Progressive Session Mix on Radio Galaxy 95.3 FM. From France on Radio Galaxy. Progressive Session Mix. Avec Guillaume sur Galaxy. sur Galaxy. Altissimo, onnipotente consiglio. Tue sono le laude, la gloria e l'onore, donne e benedizione. A te solo, Altissimo, confano. E a ogni uomo è degno di meritovare. Laudato siemi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui, e te lo è bello, e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato siemi, Signore, verso la luna e le stelle, il cielo e le giornate claride, e preziose più belle. We'll be right back. Progressive Session Mix on Galaxy. Thank you. avec Guillaume sur Galaxy. progressive session mix on Galaxy.

sur Galaxy. Yeah.

session mix on Galaxy. We'll be right back.